Benvenuti a tutti, nuovo appuntamento con NBA Week, la trasmissione settimanale in podcast sulla stagione NBA 2017-2018 per Radio Big World. Immagino che come me in molti avrete visto la sfida domenicale tra Cavaliers e Celtics in quel del TD Garden, sfida divenuta per la seconda e la terza forza nella Eastern Conference perché al primo posto erano balzati freschi freschi i Toronto Raptors. Ora, ammetto che io di Toronto ne parlo sempre troppo poco e non voglio far mistero dello scetticismo che provo tutte le volte che guardo alla vertiginosa scalata della classifica da parte di DeRozan e compagni. È puramente colpa mia, lo ammetto, non sono esattamente un fan né del loro sistema di gioco né delle stelle che sembrano avere in mano il timone della squadra. Ma dando a Cesare quel che è di Cesare, è impossibile non soffermarsi sulla crescita a livello di maturità proprio di DeMar DeRozan, capace di alzare il livello della sua pallacanestro nella stagione fino ad ora disputata in materia di completezza offensiva e soprattutto sul lavoro operato da coach Dwayne Casey. Per comprenderlo è sufficiente osservare il tasso di protagonismo statistico anche dei cosiddetti comprimari, con ben 11 giocatori che si stanziano sopra i 6 punti per allacciata di scarpe. Evidenza di una coralità espressa nel gioco anche con il successo dei risultati, che a sua volta presentano una continuità progressiva per la quale l'unica squadra canadese dell'otto si trova sulla vetta della Eastern nel momento in cui stiamo registrando, al solito è mercoledì pomeriggio. Ora, a mio parere, non saranno destinati a rimanerci, o quantomeno si tratta comunque di un organico che non convince totalmente in chiave playoffs, a livello di salto di qualità ovviamente. La sensazione è che sia Boston che Cleveland, malgrado i problemi attuali, siano nettamente di livello superiore e che ai Raptors serva comunque un secondo violino importante per salire di livello potenzialmente. Per quanto Toronto si sia meritata l'appellativo di squadra regular season, bisogna comunque ammettere l'evidenza del gran lavoro svolto dal coach, dallo staff al seguito e dalla dirigenza, con un Valanciunas ritrovato o forse scoperto in un ruolo di responsabilità e concretezza che appariva insperato, e l'apporto di CJ Miles arrivato da Indiana in estate. Ma torniamo alla sfida di domenica, occhi puntati sui rinnovatissimi Cleveland Cavaliers, reduci da una vittoria ad Atlanta dove LeBron ha fatto da sceneggiatore, regista e protagonista di un film con talvolta comparse occasionali per tamponare la falla dei partenti post trade deadline. Già in quella sfida quello che appariva come lampante era l'atteggiamento da padre buono di un James ulteriormente divertito nella prima partita con il nuovo roster completo, quella di Boston, conclusasi con una netta vittoria per i Cavaliers. La sensazione è proprio quella che davvero fosse in atto uno scontro pesante all'interno dello spogliatoio di Tyronn Lue, per il quale la collaborazione tra compagni di squadra latitava, tanto per usare un eufemismo, e difensivamente apparso lampante soprattutto considerando l'atteggiamento dei nuovi Cavaliers domenicali. Ora, effettivamente il potenziale atletico ed attitudinale di Hood e soprattutto di George Hill appare diverso rispetto a quello di Rose e Thomas, per quanto sia palese che l'entusiasmo e la voglia di fare bene di una prima volta lasci il tempo che trova in materia di paragoni. Proprio George Hill è apparso amalgamarsi perfettamente nel sistema di gioco voluto da James, così come Hood ha fornito concretezza entrando in campo a rotazione ampiamente avviata. Jordan Clarkson è inevitabilmente più giovane, più atletico e più motivato di quanto potesse esserlo quel Dwayne Wade accolto tra l'altro come un eroe nel suo rientro a Miami, per la gioia incontenibile della moglie evidentemente depressa dopo qualche mese in quel del Mistake on the Lake. In ogni caso la prima impressione è stata quella di una bocciatura sonora da parte di James rispetto al mercato estivo, il quale ha lavorato anche contro i risultati della squadra per generare una rivoluzione di roster che favorisse un contorno il più capace possibile di circoscriversi alle sue capacità e quindi al suo genio. È infatti brutto da dirsi, ma questa sembra davvero di nuovo la squadra di LeBron James, dove lui ha la regia totale di ogni scena, ogni azione, ogni evoluzione, anche quando siede in panchina. Una cosa era difficile da sostenere convivendo con una Isaiah Thomas che non avrebbe avuto nessunissima intenzione di mutare il suo gioco, sacrificandolo all'altare di uno dei giocatori più forti di sempre. Ed infatti il piccoletto ha esordito positivamente in quel di Los Angeles sponda Lakers, prendendosi i suoi tiri e stavolta segnandoli, proseguendo con le sue pause difensive anche obbligate fisicamente e dichiarando soddisfatto a fine partita di aver ritrovato i suoi superpoteri. Gli serviranno sicuramente se davvero spera di poter restare ai Lakers a giugno, visto che tutte le strade portano ad una sua non rifirma ed al tentativo di puntare ai pezzi grossi della prossima free agency, tra i quali spicca proprio il nome del genio di Akron. Anche nella seconda vera uscita dei nuovi Cleveland Cavaliers, una vittoria in quel di OKC con in campo per i Thunders i Big Three al completo, la sensazione di felicità e di benessere del re è stata espressa da J.R. Smith in una testimonianza a fine partita, dove riportava l'affermazione di LeBron sul fatto che, malgrado rinnovata, adesso Cleveland sembrasse davvero una squadra. Come si possa diventare squadra da un punto di vista di amalgama umano in meno di una settimana, io personalmente non lo so. Probabilmente vale la regola riportata da George Hill, che non appena arrivato si è messo subito a disposizione, dichiarando che in quel sistema LeBron sarà il Batman e tutti gli altri dei Robin al suo servizio. Forse, e lo dico con una vena di polemica, è sufficiente quello. È sufficiente appoggiare le volontà di James in cavalcate quasi solitarie a livello di responsabilità di scelte verso la finale. Chissà se quest'anno riuscirà a tornarci di nuovo, Boston permettendo, anche se allo stato attuale di cose sia Golden State che almeno Houston appaiono nettamente di un altro livello. Tra l'altro, dopo la chiusura del mercato, tutte le congetture possibili ed inimmaginabili, in vista ovviamente dei playoff, si stanno concentrando sui potenziali buyout. E se Joe Johnson ha clamorosamente firmato, o quantomeno sta per farlo, proprio con gli Houston Rockets, aggiungendo un ennesimo tassello di potenziale ad una squadra con un gioco dove può inserirsi perfettamente e concretamente fin da subito, il nostro Marco Bellinelli è finito in quel di Philadelphia, e si tratta di un qualcosa che sarà sicuramente interessante da vedere. Tra le voci in circolazione, l'asse Los Angeles-Cleveland si ripete di nuovo, con la possibilità dell'uscita da parte di Brook Lopez dal suo contratto Los Angelino per applaudare ai Cavs. Sarebbe indubbiamente utile cambio, o comunque alternativa, a Tristan Thompson da una parte, liberando spazio ulteriore nel salary cap dall'altra. Decisivo se l'idea è quella di portarsi a casa il King o DeMarcus Cousins o Paul George l'estate prossima. Parlando dei 76ers e proseguendo dando un'occhiata alla classifica d'Est praticamente alla pausa per lo Stars Weekend, la squadra di un Joelone Embiid eletto come giocatore della settimana appena trascorsa sosta al settimo posto di conference, leggermente distaccata da un trittico che propone più o meno lo stesso record formato da Bucks, Pacers e Wizards. Quest'ultimi si dice rinvigoriti a livello di gioco dalla perdita momentanea di John Wall, una leggenda, quella che senza il franchise player presunto giochino meglio, non certo destinata a far bene a colui che, qualche giorno prima di infortunarsi, veniva indicato come causa di copiosi malumori in spogliatoio. Chissà che in estate non possa diventare merce pregiatissima di scambio, staremo a vedere. La sfida per l'ottavo posto è tra Miami e Detroit, con i Pistons al momento fuori dalla potenziale griglia, ma beneficiari dell'arrivo di un Blake Griffin motivatissimo e soprattutto apparentemente felice di dividere il reparto con Andre Drummond. Purtroppo però stiamo registrando ovviamente di mercoledì pomeriggio, ripeto, ad un 4-0 di vittorie dall'arrivo dell'ex Clippers sono seguite 3 sconfitte consecutive. Statisticamente la coppia continua ad impressionare comunque, considerando che nelle 7 partite giocate insieme al momento, Griffin si è attestato sui 21 punti, 7 rimbalzi e quasi 6 assist per partita, mentre Drummond ha fatto registrare 17 punti e quasi 19 rimbalzi per allacciata di scarpe. Con una coppia così, i tifosi della Motor City, che per la verità non appaiono così copiosi al palazzo in questa stagione, malgrado l'innesto di mercato recente, possono ben sperare. Guardando rapidamente ad ovest, il testa a testa tra Golden State e Houston prosegue a vantaggio degli Warriors. La differenza tra le due squadre sta però nel fatto che i ragazzi di Steve Kerr sembrano essere in piena fase noia, mentre cercano di sbrigare il più rapidamente possibile le pratiche stagionali, garantendosi un primato forse neanche troppo ricercato. Lo dimostrano le immagini bizzarri proprio di un geniale Kerr, che nella sfida contro i Suns ha fatto disegnare gli schemi nei timeout ai suoi giocatori più rappresentativi, quasi come se si trattasse di una prima prova di un eventuale corso da allenatori. Houston invece corre e si rinforza, come già detto, per restare al passo, tendendo a perfezionarsi il più possibile in vista del momento decisivo, dove vorranno giocarsi il tutto per tutto, magari sperando anche nella sorte per fare uno sgambetto ai già detti rivali. Harden sta completando quella che probabilmente sarà la sua stagione da MVP, c'è poco da fare. Per quanto non sia dichiaratamente un suo fan, il calo di James e l'improbabilità di un ripetersi di Westbrook e Curry lo rendono principale indiziato, ed onestamente sta giocando una stagione strepitosa guidando una squadra che, senza Golden State in giro, sarebbe decisamente la favorita al titolo al momento. Nelle ultime 18 partite, dal momento in cui stiamo registrando, hanno perso solamente 2 gare, assolutamente non male. Sono 8 giocatori in doppia cifra di media realizzativamente parlando per il team di D'Antoni, tra quali spiccono i 31 punti per gara di Harden, i 19 di Paul coadiuvati dai 18 di Eric Gordon. Anche quel Gerald Green, che avevamo definito come potenziale arma silenziosa, prosegue a attestandosi sui 13 di media, e c'è molta curiosità per capire l'impatto eventuale di un Joe Johnson in arrivo prossimamente. Se una delle debolezze dello scorso anno per Houston era la limitatissima rotazione, quest'anno la profondità di soluzione appare la modifica più importante in un'ottica di miglioramento, oltre all'essersi messi in squadra uno dei top player della Lega che si tende talvolta oramai a dimenticare, cioè Chris Paul. Minnesota e San Antonio appaiono appaiati al terzo e quarto posto, con gli Spurs che tengono botta seppur con la notevole difficoltà di una stagione da non protagonista potenziale, sempre senza quel Kawhi Leonard che potrebbe essere già un caso. Mentre dietro queste due rincorre OKC, squadra che non è riuscita a recuperare al momento un sostituto per Robertson e che al solito pecca a livello di continuità, ma che sarà la mina vagante dei playoffs, soprattutto se Paul George si manterrà sul livello strepitoso con cui sta giocando questa stagione al momento. Dietro ci si gioca tre posti in cinque squadre. Denver, Portland e New Orleans sono praticamente con lo stesso record, ad occupare momentaneamente gli ultimi posti nella top 8. Intendiamoci, quella che sta facendo la stagione più imprevedibile delle tre roster alla mano sono i Nuggets, e gran parte del merito va a quel Nikola Jokic che non sarebbe stato scandaloso vedere alla partita delle stelle, e comunque si sta guadagnando il ruolo di giocatore di prima fascia nella Lega. Nel mese di febbraio sta viaggiando a 20 punti ed 8 rimbalzi per partita, e la sua crescita appare veramente costante. Inoltre, considerando i 22 anni di età, possiamo tranquillamente dire che sarà probabilmente il perno per il futuro della franchigia. Un po' meno bene, a mio avviso, Portland, che seppur con un Super Lillard è destinata a restare nient'altro che una squadra da primo round playoffs senza infamia né lode. Occhio comunque a Yusuf Nurkic, al terzo anno NBA, praticamente allontanato da Denver proprio per permettere l'investitura di Jokic, che comunque si mantiene su medie stagionali discreti pari a 14 punti e 8 rimbalzi per gara, con margini di crescita piuttosto ampi. Per quanto riguarda invece i Pelicans, da segnalare l'impatto del neo arrivo Mirotic, che in 5 gare si è mantenuto sui 15 punti e 9 rimbalzi per allacciata di scarpe. Dietro appaiono sgomitanti i Clippers ed i Jazz, in due condizioni diametralmente opposte. Se a Los Angeles si fronteggia una fase di ricostruzione per la quale sembra poco interessante raggiungere la post-season, malgrado si tratti della probabile ultima danza con questa maglia per DeAndre Jordan e malgrado le motivazioni del nostro Gallinari e quelle evidenti del rinnovato Lou Williams, a Salt Lake City c'è tanta voglia di proseguire la rincorsa. La striscia di vittoria aperta, incredibile, è di 10 consecutive in questo momento e potrebbe essere destinata a salire in un roster futuribile ben strutturato a mio avviso. Inutile dire che le prestazioni in questa cavalcata di vittoria del giovane Donovan Mitchell lo hanno nuovamente messo al centro di eventuali preferenze per il successo al titolo di rookie dell'anno, che ci può ampiamente stare, come io avevo già detto qualche settimana fa. Chiave secondo me neanche troppo nascosta per questo ottimo periodo dei Jazz e anche per la buona stagione ad oggi è invece la rinascita di Ricky Rubio, che sta giocando una super stagione dopo l'addio a Minneapolis, senza contare l'apporto che saprà dare sicuramente Jay Crowder appena arrivato da Cleveland. I Jazz appaiono la squadra più quotata in questo momento per provare ad entrare tra le prime 8, probabilmente a svantaggio di chi tra Pelicans, Clippers e Nuggets non riuscirà a mantenere la continuità nella parte finale della stagione in seguito alla partita delle stelle. La settimana prossima avremo modo di parlare ampiamente del weekend di Los Angeles, considerando che da giovedì notte la Lega va praticamente in vacanza per una settimana, a livello quantomeno di basket giocato sul serio. L'appuntamento è quindi rinnovato per la prossima settimana. Seguiteci se volete anche sulla nostra pagina Facebook, che si chiama appunto NBA Week. Per ascoltarci, comunque, gli appuntamenti settimanali sono sempre gli stessi. Tutti i venerdì sera sul flusso streaming di Radio Big World, tutti i sabati mattini sul canale YouTube di Belli 13, tutte le domeniche pomeriggio alle 18 in streaming su Radio Valdarno. Grazie per l'ascolto, ci risentiamo la settimana prossima.